del ritiro. So we've come to the, well, almost to the end of the retreat. Praticamente abbiamo ancora domani mattina di pratica un po' intensa. So we still have a few useful sessions, intense practice until tomorrow lunch. Yeah? Vedo già un po' di facce felici. Really beginning to see some happy faces. Finalmente, you know? Finita. Yeah. Almost at an end. E quindi niente, l'argomento di questa sera è un argomento molto, diciamo, leggero. So the topic of tonight's talk is a light topic. Ed è come portare la pratica nella vita quotidiana, so nella vita di tutti i giorni. We'll talk about how to carry the practice into your daily life. Ci sono dei momenti di passaggio, no? In un ritiro, quando si arriva e bisogna calibrare, no? La vita esterna, quindi confusione, agitazione, problemi, tutto quello che è, insomma, il samsara. So there are transition moments. For example, when we get to a retreat, we need to calibrate what's happening at the retreat with our daily life, with the busyness and worries and troubles that go along with it. E quindi bisogna cambiare registro, eh? Bisogna incominciare a rallentare, fare tutto con molta lentezza, non si può parlare, bisogna essere sempre consapevoli, attenti a tutto quello che si fa. E quindi c'è proprio un cambio di passo, no? Tra la vita esterna e il periodo in cui si sta nel ritiro. So when we come to a retreat, it's a real change of pace. We slow down, we stop talking, we try to arouse mindfulness, be mindful from moment to moment. Quando è il momento poi di ritornare, uscire dal ritiro e ritornare nella vita ordinaria, nella vita quotidiana, c'è di nuovo un cambio, eh? Bisogna di nuovo ricalibrare tutto quanto, i nostri ritmi, eccetera, eccetera. And then, of course, it's the contrary when we're ready to leave a retreat and head back to our daily lives, then once again there's a change of pace and we need to calibrate a little bit. Il primo impatto nell'uscita del ritiro, chi ha già sperimentato questa cosa e capisce bene quello che sto per dire. E, come dire, ci sentiamo un po', no? Un po' sovrastati, no? Da tutto questo che ritroviamo, no? E diventa tutto troppo, troppe parole, troppo rumore, troppe persone, troppo traffico, tutto troppo. So for those who have had experience with this, when we leave a retreat, then the first impact with the world can be overwhelming a little bit, yeah? Too many people, too much noise, too much talking, too much traffic. Sì. È chiaro che non possiamo mantenere lo stesso ritmo di qua, nel senso che se dobbiamo prendere la macchina, guidare per tornare a casa, non è che mi posso ogni volta dire, allora, mano destra, inserisce la marcia, giro a sinistra, svolto a sinistra, no? Come si faceva qui, come si fa qui durante un ritiro, no? Quindi passo destro, passo sinistro, no? Cioè, rientriamo di nuovo nel ritmo un po' frenetico della vita quotidiana. So, unfortunately, when we go back, we also have to begin to adjust our pace. We can't be noting our steps, or when we're driving, extending the right hand, first gear, turning left, turning right. Yeah. Yeah. E quindi, come dire, all'inizio ci sembra di essere in un altro mondo e abbiamo quella speranza dentro, no? Di poter continuare ad avere lo stesso tipo di consapevolezza, come quello che si ha durante un ritiro, riportarla poi nella vita di tutti i giorni. And there remains this hope, perhaps, that we can somehow maintain the qualities of mind that we have developed here. Maybe keep some of the same mindfulness that we've had this week. perché comunque, nonostante il ritiro sia un periodo difficile, dove si affrontano delle situazioni difficili, quando usciamo siamo consapevoli del fatto che comunque portiamo a casa qualcosa di importante. So even if a retreat can be quite challenging at times, having to face difficult situations, when we leave, there is often a sense that we take something valuable with us. Mm-hmm. E ci piacerebbe continuare a portarci queste cose, no? Quindi c'è dietro anche un po' una forma di attaccamento verso questo stato mentale, no? Di tranquillità, magari anche di pace, di calma, di essere completamente consapevoli di quello che si sta facendo. So, ma se andiamo a osservare, dietro c'è una forma di attaccamento. So there's a wish maybe to try to hold on to what we have cultivated here, states of peace or calm or mindfulness. But if we look, there's some form of attachment there also. Mm. E quindi c'è sempre questa speranza, però poi la situazione cambia e giorno dopo giorno, no, i primi giorni riusciamo ad essere ancora un po' più consapevoli, poi ogni giorno che passa perdiamo un po' di questa piena consapevolezza, perché in un ritiro abbiamo una consapevolezza molto profonda, molto particolare, mentre nella vita di tutti i giorni possiamo continuare ad essere consapevoli, ma la possiamo chiamare una consapevolezza ordinaria. So it happens usually that the qualities that we have accumulated here, that we have cultivated here, start to deteriorate day by day. So maybe first 2-3 days there's still some continuity of mindfulness, and then that slowly starts to fade, and then the mindfulness that we have becomes a more ordinary kind of mindfulness. Poi magari c'è anche un po' di entusiasmo, no? Andiamo a casa, adesso organizzo tutto quanto, no? In funzione della pratica, eccetera, no? And we also maybe have some enthusiasm and some desire to try to modify our lives to accommodate as much of the practice as we can. Ma non è così, no? E mi ricordo una volta, non mi ricordo se era Hannes o chi altri, aveva fatto l'esempio, no, di questo meditante che era tornato a casa e aveva praticamente messo come regola il pranzo e la cena in cui bisognava stare in silenzio. So, I think it's a story that Hannes tells about a meditator who, after a long retreat, decided that when he got home all meals with the family were going to be in silence. Insomma, la cosa è durata un paio di giorni. Ovviamente una famiglia con dei figli, il momento del pasto è il momento in cui ci si scambiano informazioni, si fanno delle domande, si parla con i figli, quindi era impossibile riuscire a riproporre lo stesso tipo di lavoro, di consapevolezza durante il cibo, durante il pranzo, anche a casa. So of course this only lasted a day, because with children in the house and that meals are a time to exchange, to talk, share things, so impossible to keep up the same mindfulness of eating. The family in the house. Ma se penso anche solo a me stessa, io lunedì rientrerò a scuola che mangio tutti i giorni con 20 diavoletti di 3, 4, 5 anni, posso mangiare lentamente, essere consapevole, mentre quello si arrampica su un mobile. So, just è impossibile. Monday Luisa's back at school and she's going to be having lunch on Monday with 23-year-olds and 5-year-olds and it's not going to be possible to eat mindfully while they're climbing on top of each other. So. Però niente è perduto, nel senso che comunque la nostra pratica nella vita quotidiana abbiamo tante cose che possiamo fare nella vita di tutti i giorni, portandoci dietro la pratica e la consapevolezza. So anyway, all is not lost. There are many things that we can do to keep up our practice in quotidian life. Qui poi sta molto alla, la persona, cioè che tipo di situazione familiare una persona ha. Se una persona vive da solo o da sola può gestire il proprio tempo nel miglior modo possibile, ma per chi, ovviamente con il lavoro, con tutti gli altri impegni, ma per chi ha una famiglia, moglie, figli, bisogna cercare di, come dire, trovare una via di mezzo anche qui. So it depends also a little bit on what our situation at home is. If we live alone, then we have more freedom to do things in the way that we want, of course accommodating for work and other things. But if there's family, then we have to find a kind of middle way here too. Mm-hmm. Cioè, per esempio, la mattina, che è il momento migliore in cui il corpo e la mente sono ancora, il corpo riposato, la mente non è ancora piena di mille pensieri, allora la seduta, si può ricavare un momento la mattina per sedersi e praticare. So it may be a good idea to try to do some formal sitting in the morning. When the body is rested and the mind is not still full of the things of the day. Mm. E magari poi alla fine della seduta, come dire, fare un po' il punto della situazione sulla giornata che ci aspetta, no? E come dire, vedere un po' come poter strutturare la giornata. And maybe at the end of the sitting one can just reflect a little bit on what the day holds for us. Mm? What we can expect to encounter in the day. E questo dà una carica, diciamo, particolare alla giornata, no? Soprattutto dal punto di vista mentale. And this gives the day a kind of form and energy, especially kind of direction to the mind. E la stessa cosa la si può fare alla sera, no? Quando si ritorna a casa, o si può ritrovare un momento al momento in cui si rientra dal lavoro, oppure prima di andare a dormire. Perhaps it may be possible to find a shorter period of time in the evening when we come back from work, or maybe just before going to bed. Proprio per liberare la mente da tutti quei pensieri. Non ha importanza se quando ci sediamo vediamo i nostri pensieri passare, però questa è una forma di pulizia, una forma di purificazione della mente per tutto quello che abbiamo attraversato durante la giornata. So it's just a way of allowing the mind to release some of what it has accumulated in the day. So if we sit in the evenings and there's a lot of thoughts passing through the mind, it's not a problem. It's a way that the mind is processing its own activities of the day. E poi concludere la seduta con la pratica di metta, l'amorevole gentilezza. And maybe we could do some metta at the end of the session. In modo tale da come dire, appropriarsi di tutti i benefici della metta. E tra quelli più, diciamo, che ci possono servire, no? Può essere quello appunto di tranquillizzare la mente, pacificare la mente, quindi poter dormire bene e, come dicono i testi, fare bei sogni e svegliarsi bene. So, just doing a little bit of metta before sleeping, so it prepares the heart and the mind, tranquillizes the mind, allows you to sleep deeply, and as the texts say, to dream peaceful dreams. E poi nell'arco di tutta la giornata noi possiamo comunque sviluppare la consapevolezza in tutte le attività che facciamo. Se non c'è la possibilità di fare queste sedute alla mattina, la seduta alla mattina e la seduta alla sera, possiamo sviluppare comunque la pratica della consapevolezza nelle attività come lavare i piatti, stirare, fare le pulizie di casa. So we can also use, if we don't have time to do one or both sittings, we can also use the daily activities as an opportunity to keep working with our mindfulness. So washing dishes or ironing or cleaning the house or... Perché nel ritiro abbiamo fatto l'esperienza, ci siamo come addestrati, no? a fare le cose in piena consapevolezza, in piena attenzione, quindi anche a casa lo possiamo fare. E di solito invece la nostra abitudine è quella di fare una cosa, per esempio stirare, no? Faccio un esempio, no? Visto che sono una donna, stiro, però la mia mente dov'è? È su altro, no? Non sono lì sul mio panno da stirare, la mia mente passa in rassegna tutti i vari pensieri che si concatenano uno all'altro, e io non sono lì nel momento presente, sono o nel futuro perché sto programmando qualcosa oppure sto ricordando altro del passato. So when she takes the example of ironing, but it often happens that we're ironing and the mind is anywhere but here, right? Programming in the future or remembering in the past. But we've been training ourselves in this week to do things mindfully, and we can maybe take some of that training back with us. Però riprendo il punto di prima, la seduta, no? È importante sedersi, cioè proprio solo l'atto di prendere e sedersi sul cuscino è importante, perché la mente funziona come attraverso le abitudini, ok? Quindi se io esco dal ritiro e allora mi propongo di fare un'ora la mattina, un'ora la sera, se riesco anche 3 ore, no? Poi dopo 2 giorni comincia a essere mezz'ora, dopo 3 giorni un quarto d'ora e poi dopo il quarto o quinto giorno non faccio più niente. Questo non va bene, è sbagliato, perché do la possibilità alla mente di cancellare questa abitudine. So the thing here, going back to the sittings, is to create a habit. So if we go back with big plans to maybe sit 3 hours a day or something, and then maybe we manage it for a day, and then the second day we're sitting 2 hours, and then the third day it's an hour, and by the end of the week we're sitting 10 minutes or not at all, and then we abandon our practice because we can't keep this high ideal. And so that's not the way to go about it, right? It's important to cultivate the habit, and so the important thing is to sit, even if it's not... For a very long period of time. Sì, basta poco, anche 2 minuti, 3 minuti, però è proprio il gesto, sedersi e dire, chiudere gli occhi e dire mi sono seduta, ascolto un attimo il respiro, 3 respiri, 4 respiri, 10 respiri, poi magari vado avanti, no? E da quei 3 minuti può diventare 10, ma è importante proprio il momento del sedersi. So this. Putting yourself down on the cushion, even if it's just for 5 minutes, 3 minutes, just getting in touch with the breath. And then maybe you sit, and then you've sat for a few minutes and you think, okay, I can keep going for a few more. E per esempio anche, penso che sia capitato a tutti di passare qualche notte insonne, no? Magari ci sono delle preoccupazioni, eccetera, magari non ci si riesce ad addormentare. E spesso e volentieri si rimane nel letto a continuare a pensare, a rimuginare. So, Luisa imagines we've all had sleepless nights, maybe we have a lot of worries or mind is churning, thinking, and then we just remain in bed in this process of thinking, going in circles. Allora la cosa migliore da fare è questa: se vuoi rimanere sdraiato, rimani sdraiato, porta le mani sull'addome, sii consapevole del movimento dell'addome che sale e che scende. In questo modo sposti la mente dal flusso di pensieri al tuo corpo. So the best thing that you can do is just reconnect with the body, you know, putting your hands on your abdomen, just feeling the breath there. So you take yourself out of this thinking mind and you just connect to the body again. Così anche se abbiamo una persona che dorme accanto a noi non la disturbiamo, ma se abbiamo la possibilità, quello è un altro momento importante in cui anche stando nel letto, sedersi solo per qualche minuto, e l'atto del sedersi, l'atto di chiudere gli occhi, l'atto di portare l'attenzione, magari sentire il corpo, sentire come si è, se c'è tensione, che tipo di sensazioni ci sono, e poi riportarsi un attimo sul respiro, sull'addome, cioè come dire, è come se la mente va a ricontattare quel tipo di consapevolezza, quel tipo anche di calma che magari abbiamo sperimentato alcune volte nella meditazione. So it's a way for the mind to reconnect with the type of mindfulness and the type of calm that it was able to develop in a retreat. And so if there's no one next to you in bed, maybe you can even sit. Otherwise, just lying, just feeling the sensations in the body, feeling your breath, and the mind reconnects, re-remembers the depth of the mindfulness and the calm. E poi magari finire dicendo che adesso sono qua, è il momento di dormire, domani mattina penserò e troverò una soluzione a quel problema. And so also just, okay, I can now allow myself to sleep and the problems can take care of themselves tomorrow. E poi possiamo, come dire, trovare tante possibilità per praticare. Eh? Il Buddha dà questo suggerimento di stare con persone che siano persone pacifiche, con persone sagge, con persone che seguono il tuo stesso sentiero. So the Buddha gives this advice to keep good company, and so to be with like-minded people, people who are by nature calm or have developed some wisdom. E questo porta, come dire, anche questo riporta di nuovo alla mente, no? Quella situazione protettiva del ritiro, perché, come dire, parli con persone che usano il tuo stesso linguaggio e usano ti capiscono. So, just keeping company with people who speak your language, who understand you. So it's a way of creating again that sense of protection that we find in a retreat. Ma questo non vuol dire che non possiamo frequentare altre persone. Certamente lo si può fare, cercando, come dire, di avere un minimo di accortezza sulla scelta. Certe volte ci vengono imposte, no? Sul posto di lavoro, per esempio, non con tutti abbiamo del feeling, non con tutti andiamo d'accordo, non con tutti abbiamo le stesse idee, però ci dobbiamo convivere. So, this doesn't mean, of course, that we can't have interactions with all kinds of people. At work, of course, often we don't have a choice. Maybe we don't always see eye to eye with our colleagues, but we can still work together harmoniously. E quindi, ma cerchiamo di mantenere un atteggiamento di comprensione verso l'altra persona, no? Anche di amorevole gentilezza. E se per caso l'altra persona proprio, come dire, si entra in contrasto fortemente con l'altra persona, si cerca un po' di svicolare a mancina, come diceva Braccobaldo. Si svicola a mancina nel senso che... Non ho capito la frase. Perché non sei italiano, sai. Hanna Barbera. No, I don't know that either, forgive. Ok, in un cartone animato c'era questo personaggio che diceva svicolo tutta mancina, vuol dire che scappo via tutto quanto a mancina, tutto a sinistra, no? Per non impattare, per non scontrarti. Ok. Yes, fine. Hai capito? I think so. All right, so we try to, if people are... not exactly to our liking. Anyway, we try to have compassion for them and try to bring an attitude of metta. And if there's out and out conflict, then maybe we find a way to get out of that situation as quickly as we can. Questo proprio per evitare appunto conflitti, tensioni, per non entrare troppo in contrasto e poi magari usare delle parole troppo forti per non parlare d'altro, insomma. So, we also to protect the mind, no? Not enter into conflicts or start using harsh language. E poi cercare nella propria città se ci sono dei gruppi. Ci sono dei piccoli sangha che si ritrovano periodicamente o una volta alla settimana, no? In modo tale da ritrovarsi nel sangha di praticanti e poter praticare. So something else that we can do is try to see if there's a group, a meditation group in our town, and to try to find a small group with whom you can meditate. So you create again the sense of a sangha. Mm-hmm. Perché è molto importante questi momenti in cui ci si trova, magari si fanno anche delle giornate intensive, no? Danno proprio un impulso alla pratica. So if you have a group, then maybe you can even do like a day long meditation, and it really gives energy to the practice. Mm. Quindi in linea generale possiamo dire che il ritiro è molto importante, infatti oltre a incontrarsi per questi piccoli gruppi sarebbe poi importante fare almeno un ritiro due all'anno. And so it's important also to underline the fact that a retreat is you can't really substitute it, and so even if you can't find a group or are able to practice at home, it's good to do at least one if not two retreats mm-hmm. every year. Mm-hmm. Mm-hmm. Perché il ritiro intensivo, come dire, siccome è intensivo, fa procedere, no? Fa andare avanti la pratica. Sviluppiamo molte qualità, sviluppiamo la consapevolezza, sviluppiamo la concentrazione, possiamo avere molti insight durante questi ritiri lunghi. So the retreat is really an opportunity to deepen the practice, which is kind of difficult to do at home because we develop the mindfulness, we develop the concentration, and then we have the possibility to really experience things on the level of intuitive insight. E se nella vita poi di tutti i giorni, chiaramente non è che possiamo avere le stesse esperienze che abbiamo in un ritiro intensivo, ma, come dire, è una dieta di mantenimento, ok? È come mantenere sempre un filo che ci porta poi al prossimo ritiro. Quindi non perdiamo niente, non perdiamo quello che abbiamo fatto. E se interrompiamo che poi al ritiro successivo dobbiamo, non dico ricominciare, ma quasi, e facciamo molta più fatica. So the idea is something like this. You do an intensive retreat and you deepen your practice and then you keep a continuity at home, and the work you're doing at home is not deepening, but it's just maintaining what has been acquired. So you don't lose touch with where you were and what you've experienced. And then the next time you go to a retreat, you can deepen further. What happens if you interrupt is that then the next time you come to a retreat, it's not exactly like beginning from scratch, but there is some of that. Yeah, you have to start again. Mm-hmm. Nelle scritture il Buddha viene paragonato a un medico, un dottore, un medico che ha intercettato la nostra malattia e ci ha dato la medicina per guarire, ok? So the Buddha gives us this metaphor of a doctor who diagnoses our illness and gives us some medicine. Mm. E ci ha dato tante linee guida, tanti metodi anche per poter, non solo in un ritiro, ma anche poi nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, poter seguire queste linee guida. And so the Buddha has given us many guidelines, not only for the retreat, but also for our daily life, a way to keep continuity with the practice. Per esempio possiamo fare riferimento all'ottuplice sentiero. So we can just look for a moment at the Noble Eightfold Path. Sono proprio otto linee guida che lui ci ha dato. So these are these eight guidelines that have been given to us. E sono la retta visione. So we begin with right understanding. Il retto pensiero. Right thinking. La retta parola. Right speech. La retta azione. Right action, i retti mezzi di sussistenza, right livelihood, il retto sforzo, right energy, la retta attenzione, right mindfulness, e la retta concentrazione. And right concentration. Queste otto linee guida si dividono in tre gruppi. So you can divide these eight parts of the 8 guidelines into 3 groups. Mm. Yeah? Le prime due, la retta visione e il retto pensiero, si riferiscono alla saggezza che sviluppiamo durante la pratica. Right understanding and right thought refers to the wisdom that we develop during a retreat. Il retto sforzo, la retta attenzione e la retta concentrazione, questi tre sono proprio inerenti alla pratica vera e propria. So, and the last three, the right effort, right mindfulness and right concentration are specifically linked to formal meditation practice. La retta parola, la retta azione e i retti mezzi di sussistenza invece si riferiscono alla moralità, alla parte, diciamo, etica, no? Del sentiero. And the part which involves the right speech, the right action and right means of livelihood concerns the sphere of ethical behavior. Prendiamo un po' in considerazione alcuni di queste linee. Retto sforzo, retta attenzione, retta concentrazione, retto sforzo ne ha parlato Gautam l'altra sera, quindi avete già benissimo chiaro di che cosa si tratta. Retta concentrazione e retta attenzione, anche questo fa proprio parte della pratica, ne avete già sentito parlare in questi giorni, quindi non li teniamo molto in considerazione. Vediamo un po' gli altri punti. So we'll not go through right effort, right mindfulness and right concentration since we've already talked about these things these last days. Per esempio la retta visione. La retta visione è vedere le cose come realmente sono. So right understanding means seeing things as they are. L'abbiamo sviluppato durante il ritiro, no? Abbiamo visto l'impermanenza. So, come tutte le cose cambiano continuamente. So perhaps we have begun to experience in the retreat that everything is changing all the time. Mm. Questo punto lo possiamo portare nella vita di tutti i giorni. So this right understanding then accompanies us into our daily life. Mm. Noi facciamo un programma nella giornata, per esempio, a un certo punto può arrivare un imprevisto, e anziché reagire con avversione, con rabbia, eccetera, cioè facciamo venire fuori la nostra saggezza, abbiamo visto l'impermanente, quindi può cambiare, qualsiasi cosa può cambiare. So, okay? Perhaps we've got something planned and then something unforeseen arises and instead of reacting with frustration or anger or disappointment, maybe we can remember that things are subject to change all the time. Mm. Mm. La retta parola, per esempio. So, right speech. Che è abbastanza importante visto che il mondo gira un po', insomma, sulla parola. Very important seeing how much we live in language in the world. Mm. Perché siamo abituati a parlare molto e qui ci si collega anche alla verità, a dire le cose come realmente sono. So here also we can connect this to the right understanding. So speaking truthfully, saying things as they are. Quindi a non raccontare bugie, a non raccontare il falso, ma non solo questo, Anche chi non dice le bugie, però a certe volte, non so se vi capita, no? Esagerare un po' il discorso, no? Portare magari una piccola cosa che ci è capitata, portarla a livelli stratosferici, no? Perché vogliamo sentirci importanti. Anche quello, anche su quello bisogna fare attenzione. So, it's not just a question of lying, perhaps. We see this in ourselves, but sometimes we have the tendency to maybe exaggerate, to make a small thing large, to create a sense of importance around things. So we need to be careful here. Nel ritiro non si parla, quindi il problema non sussiste. Esiste il problema della verità nel ritiro, che è quello di quando andiamo a raccontare all'insegnante le esperienze che abbiamo fatto, lì dobbiamo raccontare veramente la verità, e certe volte anche in queste occasioni utilizziamo la verità e la parola in modo non tanto corretto. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a come ci esprimiamo, a come parliamo, al tono di voce che usiamo, no? We need to really pay attention to how we approach a conversation, how we speak. And then, even though we don't talk here, still the question of truthfulness is sometimes apparent in how we relate or don't relate things during interviews. Mm-hmm. Poi abbiamo la retta azione. Thinking about, talking about right action. Mm. E con la retta azione noi possiamo fare riferimento ai precetti. And when we come to right action, we can refer to the precepts that we recite in the morning. Nella vita di tutti i giorni possiamo prendere i cinque precetti. For example, we can make an effort to keep the five precepts in our daily life. E tenere presente queste, diciamo, regole di comportamento, che in realtà sono delle linee di addestramento. So these are more like training rules or training guidelines. Yeah? Perché sono non uccidere, non prendere ciò che non è stato dato, eccetera, eccetera. Già li ricordate tutti, vero? Non sto a ripeterli. So these are, just to remind you again briefly, not listing them all, not to take life, not to kill, not to steal or not to take what is not given. And there are three others. Alcuni sono molto importanti, tipo non uccidere, non rubare, eccetera, insomma, lì bisogna fare moltissima attenzione. Però, per esempio, ritornando alla retta parola, è chiaro che non magari può scappare una parola di troppo, eccetera, no? Questo non deve farci sentire completamente in colpa. In fondo ci stiamo lavorando, no? Su questo, ci stiamo addestrando. So it's not that we need to start feeling guilty every time we maybe stray from the precepts. Of course, things like killing and stealing, maybe we want to avoid. But with coming back to right speech, okay, if our speech strays from the guidelines, then it's not a question of judging ourselves. It's just reminding ourselves that we're training. We're in training. Yeah. Quindi lo sforzo, comunque c'è un po' di sforzo, è cercare di seguire queste linee di guida, insomma. So there's a certain amount of effort involved in trying to keep to the guidelines. E poi retti mezzi di sussistenza, e qui bisogna vedere che tipo di lavoro facciamo. Il Buddha, come consigliava appunto trovare dei mezzi di sussistenza che fossero finalizzati comunque al bene, non al male, ok? Quindi, per esempio, faccio un esempio: un macellaio non ha proprio un retto mezzo di sussistenza, oppure come si chiamano quelli che costruiscono le armi? Arms dealers. O quelli che lavorano nelle fabbriche delle armi. So when we come to right means of livelihood, then the Buddha suggestion is to do a profession that brings good rather than harm into the world. So when we think about people who work in arms factories or maybe a butcher, and we're in a kind of gray area here. Right? You want to reflect a little bit. Yeah? Quindi, insomma, diciamo, diamo un'occhiata a quello che facciamo in maniera più consapevole. Ecco. So just bringing some awareness into what our work consists of. E quindi oltre allo duplice sentiero abbiamo altri mezzi utili per, altri strumenti utili per, da portare nella nostra vita di tutti i giorni e che ci continuano a mantenere sempre quel filo diretto, no? Della pratica. So apart from the Noble Eightfold Path, there are other things that we can do to keep this continuity, keep ourselves connected to the practice. E queste sono, sono delle qualità che vengono chiamate paramis, le paramita, so there o are these, perfezioni. There are these qualities, 10 qualities? Sì, yeah? ten qualities called paramis or perfections. Mm-hmm. E ve le elenco così poi dopo le possiamo guardare un po' da vicino. Allora, la prima è dana, la generosità o la disponibilità. So the just give you a list of them and then maybe we'll look at them one at a time. Yeah? So the first one is generosity. Poi sila, virtù, moralità. So the second una one, condotta appropriata. The second one is morality. Nekamma, rinuncia. The third one is renunciation. Pagna, la saggezza. Ah, okay. The fourth one is wisdom. Hmm? E viria, the fifth, energia, the fifth is effort or energy. Diligenza, vigore, sforzo. So, tutte queste traduzioni. Yeah. E canti, la pazienza. The sixth is patience, canti. E che potrebbe essere anche tolleranza, sopportazione, accettazione. So tolerance, acceptance, yeah? under the category of patience. Hmm? Saccia, la verità. Seventh onestà. Is truthfulness. Adittana, determinazione, risoluzione. The eighth is Adittana, the day that we've had today, so that is resolution or determination. Metta, l'amorevole gentilezza, la benevolenza. Metta. E poi upekkha. Loving kindness. And the tenth, the last one is equanimity, upekkha. Upekkha. Mm. Vediamole un pochino da vicino questi vari aspetti di queste perfezioni. Cominciamo dalla dana, la generosità. So let's just look at these one at a time, yeah? Beginning with generosity. Mm. Mm. Generosità può essere vista sia dal punto di vista aiutare qualcuno quando ha bisogno, dal punto di vista materiale, economico, finanziario, una persona che è in difficoltà, oppure fare beneficenza, eccetera. So, generosity, helping somebody in need, maybe financially helping somebody in need, or maybe doing some charity work. Mm. Mm. Perché spesso abbiamo la tendenza a voler sempre prendere, no? È bello ricevere, eh? È più difficile dare. Invece in questo senso dana è proprio il dare senza voler niente in cambio. So usually it's this tendency is to want to receive, and so dana is a kind of counter to that, right? It's this giving without expecting anything in return. Ma non riguarda solo l'aspetto, diciamo, materiale, può anche essere visto come generosità nel tempo. So it doesn't just have to be material, right? It can also be generosity with one's time. Mm. Mm-hmm. Do del tempo a un amico che è in difficoltà. So, just giving your time to a friend in need. Mm? Mm. Mm. Oppure un amico che ti chiede, puoi aiutarmi a fare questo? E tu ti rendi disponibile, ovviamente, cercando di non dire sì e poi tirarsi indietro, ok? Perché spesso succede, dai la disponibilità, poi all'ultimo momento dai buca. So, making yourself available, mm? to people... And then also dosing this, right? Making sure that you really can be available rather than just offering, yes, I can, and then at the last minute realizing you really can't. Quindi condividere anche con gli altri, no? Condividere il tempo, condividere anche l'aspetto dei soldi. Tutto il sangha monastico buddista vive sulla dana. Oh, I monaci che vengono qui o i monaci che ci sono nel mondo, loro come regola hanno quella di non poter prendere soldi. E come vivrebbero? So this sense of sharing, right? The entire Buddhist, formal Buddhist community of monks and nuns lives through generosity, lives through dana, because one of the rules that monks and nuns follow is that they can't receive money. Mm. Secondo, sì, la virtù, la moralità. So the second is morality? E questo l'abbiamo già detto prima, no? È proprio un riferimento ai 5 o agli 8 precetti. Quando siamo in un ritiro prendiamo gli 8 precetti, quando siamo fuori utilizziamo i 5 precetti. So this is referred to what we just said about to the precepts which we've just spoken about. Che funzionano proprio come protezione, se ci pensate bene, eh? Cioè seguire i 5 precetti è una protezione. Per esempio anche l'uccidere, no? Non parliamo di omicidio, ma parliamo per esempio uccidere una formica, una zanzara, eh? Anche quello, anche loro sono degli esseri, per cui perché dobbiamo ucciderli, no? Quindi è una forma completa di protezione verso noi stessi e verso gli altri. So really to see that the precepts are a kind of form of protection, right? They protect others and they protect ourselves. So we think about not killing, obviously we don't think about killing people, but then we may be a little bit careless about insects or flies or mosquitoes or... Nekamma, la rinuncia. The third one is nikamma, renunciation. In un ritiro, sì, come dire, la rinuncia è un po' una prova di forza, per esempio con l'ottavo precetto, non cenare alla sera, no? Il mangiare alla sera, quella è una rinuncia, so, quella è nekamma. So, in kind of challenge in a retreat sometimes, right? We renounce, for example, the evening meal. It's a form of renunciation. Ma nella vita di tutti i giorni possiamo sviluppare lo stesso la rinuncia. But we can practice renunciation also in our daily life. Per esempio rinuncio a un cinema perché c'è un amico che non sta bene, no? E anche quella è una rinuncia. Possiamo utilizzare sia la generosità che nekamma contemporaneamente. So also seeing that maybe I renounce tonight the cinema because a friend is sick and needs my help, so that's a form of renunciation. It's like generosity and renunciation working together. Oppure per interrompere nekamma va bene anche per interrompere, per esempio, certe abitudini che abbiamo, no? Per esempio il cioccolatino, oppure mangiarci il gelato, no? Allora lì proprio ci mettiamo alla prova, eh? O dire ok, per oggi non mangio il cioccolatino, no? E vedere la reazione che abbiamo. So also maybe we have a habit that we want to shift out of, and so maybe we eat too much chocolate or something, or too much ice cream, and then it can just be an act of renunciation, right? To say for today I don't have any, and then I see how I feel, right? How the mind reacts. Vi dico come faccio io il nekamma. Io sono un'appassionata di scarpe. So just a personal example of renunciation. Yeah? Allora faccio questo esperimento ogni volta, mi diverto ad andare a guardare le vetrine di scarpe, le guardo, dico bella, quasi quasi quella, poi faccio, come dire, ritorno sulla consapevolezza e dico vabbè, ma tanto ne ho di scarpe, ci rinuncio, non mi servono, no? Questa è importante, cioè io l'ho trovata un esperimento veramente eccezionale, nel senso che ti abitua, no? A non eccedere sempre nelle cose. Noi abbiamo talmente tante cose, gli armadi pieni di vestiti, le scarpe e il frigorifero sempre pieno di cibo, no? Non vogliamo rinunciare a niente, ok? C'è sempre questa forma di accumulazione. Invece nekamma ci aiuta ad eliminare il superfluo anche. So our life is full of accumulations. And so renunciation is a kind of force against that. So this kind of experiment that Louisa plays with herself, right? So she loves shoes, so she goes window shopping, right? She'll go to a shoe store and she'll look at the shoes in the window and she'll pick out one that she really likes and she thinks, oh, well, that would be great. And then it's like stepping back from that and saying, okay, but I already have enough shoes, and walking away from that. So just seeing that you don't have to give in to every desire that arises, right? You can renounce your desires. Poi abbiamo Panya, la saggezza. La saggezza che, diciamo, sviluppiamo moltissimo durante il ritiro. E questa saggezza la possiamo portare nella vita di tutti i giorni, soprattutto nei comportamenti verso gli altri o verso situazioni che ci accadono. The wisdom is really developed in the context of a retreat, but then we can really put that to work outside. So in the context of relationships, for example, right? Being wise in the context of relationships. Soprattutto nei rapporti, no? Cioè, dobbiamo farci guidare dalla saggezza, non entrare in contrasto diretto, non scontrarci con l'altra persona, ma cercare di utilizzare la saggezza in modo tale da avere un dialogo sincero con l'altra persona senza tutti quegli stati mentali che accompagnano il contrasto, e quindi l'avversione, la rabbia. So, for example, moving from a conflictual situation where there are lots of unwholesome mental states, anger, frustration, etc., to having a real honest discussion with somebody without all that aversion in the system. In questo modo il mondo non cambia, però possiamo cambiare noi. Quindi nel nostro piccolo possiamo fare questi cambiamenti grazie alla saggezza e grazie al fatto che attraverso la saggezza tagliamo via tutti quelli che sono gli inquinanti mentali. So the real function of wisdom is to help us to cut into the mental defilements. And maybe we can't change the world, but we have this possibility to change ourselves. Poi dopo abbiamo viriya. And the fifth one is viriya, or effort, energy, diligence. Viriya è lo sforzo, è l'energia, il vigore, la diligenza, che è un punto, come dire, abbastanza importante durante la pratica, no? Perché noi ci sforziamo, no? Cerchiamo di far sorgere questa energia per lavorare sulla consapevolezza, per portare avanti la pratica. So it's a quality that we develop very much in a retreat, that supports the mindfulness and allows us to carry on with our practice. E questo sforzo lo possiamo portare nella vita di tutti i giorni, per esempio quando appunto decido di praticare la mattina e suona la sveglia, spengo la sveglia e lì c'è questo sforzo, questa energia per alzarsi e praticare. So maybe I've decided that I'll try to use a little window in the morning to sit, and then using the energy to get yourself out of bed when the alarm rings, right? So to get yourself out of bed and out to your cushion. Senza spegnere la sveglia, girarsi dall'altra parte e continuare a dormire, ecco. Allora lì viriya proprio non c'è. Without the snooze button, yeah? Okay. Lo sforzo several, non c'è proprio rounds lì. Of the snooze button, yeah? So. Canti la pazienza, la tolleranza, la sopportazione, l'accettazione. Quanto canti avete sviluppato in un ritiro? So, patience, tolerance, abiding with what is difficult. We really have to develop that in our practice. Perché insomma ci vuole veramente molta pazienza e sopportazione, no? Per vedere tutta questa sofferenza a livello fisico, a livello mentale. La pratica proprio è questa, no? Trovare proprio la forza e la pazienza per vedere tutto questo. So the practice is really about this, no? How much patience and forbearance we can bring towards the various difficulties, the dukkha that we experience in body and mind. E questo è importantissimo, perché così nella vita di tutti i giorni certe volte ci ritroviamo ad essere pazienti verso situazioni che magari prima non sopportavamo. No, e questo è grazie alla pratica. So the practice gives you a great gift here of patience, because then it's equally important in the world, no? You often may find after doing intensive practice that you suddenly have patience for situations that would otherwise have generated frustration or impatience or anxiety or La pazienza, no? La tolleranza verso l'altra persona, perché abbiamo capito che quanti stati mentali sofferenti abbiamo, e quindi la persona che abbiamo davanti li ha gli stessi stati mentali di sofferenza come i miei, no? Quindi è come dire, sono tollerante, ho pazienza, perché capisco che anche l'altra persona sta a del dolore dentro, della sofferenza dentro. So patience or tolerance is also a function of wisdom. We see how many difficulties our own minds create for ourselves, and so we can also bring that same attitude of tolerance or patience towards other people, recognizing that they are also suffering, that there is also much difficulty in them. E poi pazienza anche verso noi stessi, perché magari possiamo attraversare delle situazioni di frustrazione e comunque non sentirci così sofferenti, no? E quindi avere pazienza anche verso noi stessi. And also having patience to bear with difficult situations, so having patience towards ourselves and for ourselves. Poi abbiamo Satya, la verità, e di questo ne abbiamo parlato prima, va proprio in coppia con la retta parola. So the next one is Satya or truthfulness, but we've already spoken about this in relation to right speech. Poi abbiamo la dittana, la risoluzione. And then the eighth one is aditana, which is resolution or determination. Ecco, l'avete vista oggi la parola attaccata fuori Bante, la dittana per la giornata di oggi. La dittana la possiamo fare anche fuori. So we have the day of aditana today, right? It's there on the message board. And maybe we can bring something of it into our daily life, huh? Una risoluzione rispetto alla pratica, per esempio, non dobbiamo porci delle risoluzioni molto alte, per esempio, mediterò 3 ore al giorno. No, è impossibile, se hai una vita molto occupata è impossibile, no? Ma trovare una dittana che sia giusta, per cui per esempio, ok, faccio questa dittana, questa settimana mi alzo 5 minuti prima per praticare, quella è la dittana? Ho preso una risoluzione e la mantengo. So, good to make resolutions that you can keep. So, no point in making too demanding resolutions. I'll practice 3 hours a day every day and then finding you can't keep them. So, maybe the resolution is that this week I'll get up 5 minutes earlier every morning in order to give myself a little bit of time for morning practice. And that can be the resolution. E poi abbiamo metta, l'amorevole gentilezza. And then the next one is metta, which is loving kindness. Metta lo possiamo distribuire proprio a grandi mani, no, nella vita quotidiana. So metta, very very useful in daily life, huh? To be able to spread this sense of gentleness and loving kindness. La possiamo praticare in qualsiasi momento, metta, mentre stiamo aspettando l'autobus, mentre stiamo in coda in macchina, mentre stiamo al supermercato in coda. Cioè possiamo veramente trovare ogni momento giusto per praticare la metta. So metta we can practice at any moment, right? Waiting for something, waiting for an appointment, waiting for the bus. It's a moment where we can just start radiating loving kindness. E anche verso noi stessi, And even towards ourselves. In un momento difficile possiamo proprio inviare metta anche verso noi stessi. A way of also holding ourselves through difficult moments. E poi l'ultimo è upekkha, l'equanimità. And the last of the virtues is upekkha, equanimity. Equanimità, quindi e osservare le cose che accadono, no, con una certa distanza, non sempre essere coinvolti dai nostri stati mentali, dalla rabbia, dall'avversione, dal desiderio, ma con il ritiro intensivo abbiamo imparato a vedere un po' a distanza tutte queste cose, quindi nella vita di tutti i giorni con l'equanimità possiamo sviluppare l'equanimità in questo modo. Equanimity is watching things with a certain degree of detachment, so not getting totally lost in our own fears or anger or desires. We have seen something of equanimity in a retreat, and maybe we can hold that quality also and develop it in daily life. Okay. Chiaramente, cioè questi sono, abbiamo finito, sono 10, sono 10, ma non è che si fanno, li dovete fare tutti insieme, potete scegliere, no? Una di queste, svilupparne una rispetto a un'altra, oppure potete variare, no? Potete e vedere quale di queste possono portare vantaggi. Insomma, tutte le 10 paramis sono a vantaggio nostro, a vantaggio del nostro stato mentale, e quindi ci aiutano nella vita di tutti i giorni. So the 10 paramis are very powerful, but they help to us and to others. But obviously we can't develop all 10 of them simultaneously. So we choose maybe one or two, and then maybe we can play. Maybe we develop work with one for a while, and then we switch to another. La cosa importante è quello che ha detto Gautam l'altra sera, che racchiude un po' l'insegnamento del Buddha, eh? Pratica il bene, non fare il male e purifica la mente. So, just coming back to the Dhammapada verse from a talk a few days ago. So the important thing is just to keep in mind what the practice is, right? So, to abandon that which is wholesome, to cultivate the wholesome, to purify the mind. Ok, io ho finito. Vi auguro un buon ritorno a casa quando partiremo per domenica e di continuare a coltivare la consapevolezza giorno dopo giorno. So we finish here. Luisa wishes you a safe return, but not yet, and may you continue to develop mindfulness day by day. Ok, grazie. Sadhu. Sadhu.